Il cacciatore di libri. Da quando nel 2003 il Codice da Vinci di Dan Brown diventò un successo planetario, il thriller storico si è imposto come uno dei generi preferiti dai lettori, molto meno invece dalla critica. Fra gli autori del genere, uno dei più interessanti è sicuramente lo spagnolo Ildefonso Falcones, avvocato prestato alla scrittura. Il suo primo romanzo, La cattedrale del mare, ebbe un successo internazionale inatteso. Stessa affermazione per il secondo, La mano di Fatima, pubblicato in Italia da Longanesi con la traduzione di Nanda di Girolamo. È ambientato alla fine del 500 in Spagna. I moriscos, ossia i musulmani spagnoli, combattono contro i cristiani che li hanno costretti alla conversione. Fra loro c'è un ragazzino, Hernando, che suo malgrado rappresenta entrambe le culture religiose. Sua madre morisca, infatti, era stata stuprata da un prete cristiano. Ma perché Ildefonso Falcones ha deciso di ambientare il romanzo in questo periodo storico? Sentiamolo. Perché considero che è un hecho trascendentale nella storia di Spagna. Perché considero che sia stato un periodo fondamentale nella storia della Spagna. Credo che nel XVI secolo, fondamentale nella storia del mio paese, è stato per esempio il secolo d'oro nella letteratura, ci sono stati tanti avvenimenti, per esempio l'espulsione dei moriscos, ossia i musulmani spagnoli, mentre tutti ricordano l'espulsione degli ebrei, avvenuta circa 100 anni prima. Quasi nessuno, nella stessa Spagna, è al corrente dell'espulsione dei musulmani. E i moriscos erano in Spagna da 800 anni. Non erano quindi degli immigrati. Ho pensato che questo era un fatto storico rilevante che mi permetteva di scrivere un romanzo di invenzione e di avventura, come poi ho fatto. Come dicevo, un hecho storico importantissimo e che mi permetteva di sviluppare una novella di ficzione e di avventura, pues, come si è intentato. Ma c'è anche una sorta di messaggio, cioè in questo periodo in cui si parla molto anche di guerra, fra virgolette, di religione, c'è anche un'altra ragione per cui lei ha scelto questo tema o è puramente una ragione romanzesca? Le piaceva e ha deciso di fare un romanzo su quello? Effettivamente la novella tiene un messaggio. Ese mensaje, esa búsqueda de la tolerancia entre, effettivamente entre nel romanzo c'è un messaggio, pacifica, il messaggio della ricerca della tolleranza fra le religioni, della convivenza pacifica fra le religioni. Come persona, non tanto come scrittore, credo che sia un traguardo meraviglioso che spero un giorno possa essere raggiunto. Con il mio romanzo ho voluto ricordare che i moriscos hanno cercato di raggiungere questo obiettivo. Ci hanno provato, per esempio attraverso la falsificazione dei libri Plumbei di Granada. Ho voluto raccogliere questa sfida e dare un messaggio. Il messaggio che i moriscos ci hanno provato a raggiungere una convivenza pacifica nel XVI secolo. Queda ese mensaje, il messaggio che ellos mismos pretendieron darnos nel siglo XVI. Nel romanzo c'è anche una storia d'amore fra Hernando e Fatima. Che rapporto c'è fra loro? Come la vive il protagonista questa storia? Bueno, Hernando vive esa historia de amor, aparte de la historia de amor en sí misma. Come una lucha. Hernando vive la storia d'amore, a parte la storia d'amore in se stessa, come una lotta. Una lotta per mantenere viva la cultura e la religione. All'epoca le donne musulmane tramandavano ai figli la lingua, una lingua che era stata proibita e che stava scomparendo. Spettava a loro tramandare la cultura, le leggi e la religione musulmana. Le leggi musulmane erano le incaricate di trasmettere la religione musulmana. In conseguenza Fatima se nos presenta pues come così Fatima può essere vista come una vera e propria combattente, forse anche ancora più di Hernando. Credo che questo aspetto caratterizzi in modo particolare il romanzo ed entrambi i personaggi. Lei è definito da alcuni come il Dan Brown spagnolo. Questa definizione le dà fastidio o le piace? Vamos a ver, che a uno se le compare con una persona che tiene l'éxito literario, por más críticas que tenga. Come Dan Brown, pues no puede fastidiar nunca, no? Se uno viene paragonato a un autore di successo, per quanto anche criticato, come Dan Brown, non può certo dare fastidio. È come se un pilota di Formula 1 venisse paragonato a Fernando Alonso. C'è tuttavia un'importante differenza. I romanzi di Dan Brown sono basati sull'esoterismo. La parte inventata è preponderante. Nei miei romanzi, sia La cattedrale del mare che La mano di Fatima, i fatti storici narrati sono assolutamente veri. Ovviamente c'è anche una parte romanzata, ma credo che sia questa la differenza sostanziale fra un romanzo di Dan Brown e uno mio. Però io credo che è la gran differenza entre una possibile novella di Dan Brown e una possibile novella mia. E questo era Ildefonso Falcones, autore di La mano di Fatima, pubblicato da Longanesi. Rimanendo in tema di gialli storici, una piccola casa editrice, Cavallo di Ferro, ha da poco pubblicato 1661, l'anno in cui il re divenne sole, scritto dai francesi Yves Go e Denis Lupé. Siamo nella Parigi del XVII secolo, il cardinale Mazzarino sta per morire e si scatena la guerra per la successione, fra segreti da mantenere e vecchi complotti. Ecco un brano del romanzo. Il silenzio calò per un istante sulla piccola assemblea, i cui membri si osservavano reciprocamente. Si udiva solo lo sfrigolio di una candela sul punto di spegnersi. «Fratelli, sono più di 500 anni che la nostra congregazione conosce l'esistenza del segreto. Il manoscritto nel quale è celato è nelle nostre mani. Solo il mezzo per rivelarlo al mondo ci è sfuggito fra le dita 15 anni fa e continua a sfuggirci da allora». Entrarne in possesso ci consentirebbe di convincere il re della legittimità della nostra condotta. È per questo motivo che dovremo tentare fino all'ultimo istante di ritrovare la chiave. Ed è per questa ragione che è indispensabile trasferire in Francia il manoscritto cifrato che si trova qui a Roma. E questo era un brano tratto da 1661, l'anno in cui il re divenne sole. Questo che state sentendo è il trailer del film Un uomo solo, da poco nelle sale cinematografiche. Ancora una volta un film tratto da un romanzo, l'aveva scritto nel 64 Christopher Isherwood, autore inglese trapiantato negli Stati Uniti. In Italia era comparso per la prima volta nell'81, ora è stato ripubblicato da Adelphi in contemporanea al film, con la traduzione di Dario Villa. Romanzo ambientato nel 1962, si racconta la giornata di un uomo, George, sessantenne docente universitario, che ha da poco perso il compagno in un incidente stradale. Da molti, un uomo solo, è considerato una pietra miliare nella letteratura gay. Il film che ne è stato tratto è firmato da uno stilista, Tom Ford, per la prima volta alla macchina da presa. E allora ecco come Tom Ford parla del libro di Isherwood. Una delle ragioni per cui Christopher Isherwood era così straordinario, una delle cose che ho notato di lui, è che la maggior parte delle sue storie erano autobiografiche, ma le storie non riguardavano il fatto che erano gay, erano semplicemente persone gay che vivevano la loro vita. Così questa vicenda, secondo me, è universale. È la storia di ogni uomo innamorato. Sarebbe stato lo stesso se lui avesse perso una moglie. Isherwood era molto moderno quando scriveva queste storie. Trattava i suoi personaggi come esseri umani, non definiti dalla loro sessualità. Ed era quello che volevo raccontare, e credo che gli attori abbiano fatto un ottimo lavoro. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Alessandra Tedesco.